24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paola Nania all'appuntamento con 24 ore in Europa. Anche oggi è l'andamento delle borse in primo piano. Fine settimana positivo per le piazze europee che hanno guadagnato 252 miliardi dopo le perdite degli ultimi giorni. A sostenere listini la decisione di Spagna, Francia, Italia e Belgio di vietare le vendite allo scoperto per un periodo per limitare la speculazione. Molte le notizie di taglio economico oggi, comprese le novità che vengono dall'Italia, dove si discute una difficile manovra anticrisi da 45 miliardi. Poi in Gran Bretagna con la quinta vittima degli scontri. Scontri che, per ragioni assolutamente diverse, ci sono stati anche in Spagna, sulla Costa Brava. E partiamo appunto dall'andamento di borsa sostenuto dal blocco delle vendite allo scoperto. Sentiamo. Le borse europee hanno chiuso la settimana in forte rialzo nell'ultima seduta prima di un lungo ponte per Ferragosto. Ha ottenuto quindi l'effetto sperato la decisione presa da Italia, Francia, Spagna e Belgio di bloccare le vendite allo scoperto, cioè quei contratti che consentono di vendere titoli che non si hanno in portafoglio speculando al ribasso. Londra, Francoforte e Parigi hanno chiuso con progressi compresi fra il 3 e il 4% e anche a Milano il FTSE MIB ha terminato a più 4% e il FTSE All Share a più 4,1%. Gli acquisti si sono concentrati sui titoli finanziari. Mediobanca ha guadagnato quasi il 10%, Unicredit il 5,6% e Intesa San Paolo il 3,2%. Il merito è stato anche del blocco delle vendite allo scoperto, ma tutti gli operatori sottolineano come si tratti di un effetto di breve termine che, da solo, non avrebbe alcun potere di bloccare il trend ribassista. Per ora, comunque, ha avuto almeno il merito di annullare le perdite delle ultime sedute, con Milano che, dopo aver visto il precipizio, è tornata sugli stessi valori di una settimana fa. Guido Maurino, da Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il PIL francese è rimasto invariato nel secondo trimestre dell'anno rispetto ai primi tre mesi del 2011, con una crescita dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2010. Le previsioni degli analisti indicavano un aumento dello 0,3%. Segnali incoraggianti dal Portogallo, la Troica tra i rappresentanti di Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale ha valutato positivamente i progressi del paese nel programma di risanamento della sua economia. Lo ha riferito il ministro delle Finanze, Vítor Gaspar, del nuovo esecutivo di centrodestra che si è impegnato a tagliare il deficit di bilancio al 5,9% del PIL quest'anno. In Italia intanto si discute della manovra anticrisi. Tagli a ministeri ed enti locali, misure aggiuntive per un totale di 45 miliardi in due anni, tassa di solidarietà. Il decreto al varo del governo per combattere la crisi dei mercati viene anticipato agli enti locali dallo stesso premier Silvio Berlusconi. Aggredire i costi della politica con 14-15 misure. Tagli a ministeri di 6 miliardi nel 2012 e di 2,5 nel 2013. Riduzione dei trasferimenti agli enti locali in due anni, escluso il settore della sanità, 6 miliardi nel 2012, 3,5 nel 2013. L'obiettivo? Ottenere 20 miliardi nel 2012 e 25 nel 2013. Tutto per arrivare al pareggio di bilancio anticipato al 2013 come chiesto dalla BCE. Si pensa poi a ridurre le province e ad accorpare i comuni. Tagli e non tasse, precisa il ministro dell'economia Giulio Tremonti, dobbiamo ridurre l'indebitamento attraverso riduzioni della spesa. Ma intanto Berlusconi conferma la tassa di solidarietà, ovvero la patrimoniale per i redditi superiori a 90.000 euro annui. Sulla spesa previdenziale Umberto Bossi insiste e promette di vigilare sulle pensioni. Nessuno oserà toccarle, spiega il leader della Lega. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Per raggiungere il pareggio di bilancio è necessario un taglio dei trasferimenti agli enti locali. La misura è la seguente: 6 miliardi in meno nel 2012 e 3,5 miliardi in meno nel 2013. Anche i ministeri subiranno un taglio uguale, ma, fanno sapere governatori e sindaci, il mal comune non è mezzo gaudio. È il presidente Formigoni a parlare per tutti e senza vie di mezzo. Una manovra che picchi ancora una volta sul comparto regioni ed enti locali abbia effetti depressivi ed abbia effetti antisociali, perché va a colpire capitoli di spesa essenziali per la qualità di vita delle persone. La sanità non è toccata, ma comunque è stata toccata precedentemente. Vengono toccati i servizi sociali, vengono toccati i trasporti, viene toccato, quel minimo aiuto che possiamo ancora dare alle imprese. Province e comuni seguono a ruota e a chiarire l'orizzonte ci pensa il sindaco Alemanno. Siamo in un ambito di pura spesa sociale. Questi sono tagli che si traducono di fatto in larghissima parte in spesa sociale. Il ministro Tremonti avrebbe ipotizzato un anticipo del federalismo fiscale, ma è lo stesso Formigoni a spazzare via ogni velleità. Già la manovra di luglio affossava il federalismo fiscale. Se quei tagli aggiungiamo ulteriori tagli, il federalismo fiscale non esiste più. Parole non gradite alla Lega, che per bocca del senatore fa sapere che la manovra non cancella affatto il federalismo. Sono loro i governatori che sono cattivi e la raccontano male. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è una quinta vittima delle violenze in Gran Bretagna. Un uomo di 22 anni è stato arrestato per la morte di Richard Mannington Bowes, 68 anni, aggredito lunedì sera mentre cercava di spegnere alcuni incendi a Ealing, alla periferia di Londra. Durante i disordini, appunto, l'uomo è morto la notte scorsa in ospedale, quinta vittima degli scontri. Da Londra sentiamo la giornalista Emma Wallace. Purtroppo questo uomo di 68 anni che sembra che abbia provato di fermare un gruppo di ragazzini che volevano bruciare due cose nella strada e poi è stato pestato di botte, è morto. La polizia sembra che abbia arrestato un ragazzino sospetto di averlo ammazzato, un ragazzino di 22 anni. Fino ad oggi gli arresti in tutta l'Inghilterra sono più di 1000 persone e stanno facendo i processi giorno e notte per provare di processare tutti in breve tempo. Ecco, poi c'è stata anche questa dichiarazione di Cameron ieri che diceva che si potrebbe anche decidere di bloccare i social network. Sì, infatti i suoi discorsi erano molto forti ieri, ovviamente, perché doveva prendere in mano la situazione. Quindi non hanno deciso definitivamente ancora cosa possono fare, però stanno parlando di fare un tipo di crackdown su social network e di forse di limitare un po' di più il nostro libertà. E nella notte tra giovedì e venerdì ci sono stati scontri anche in Spagna. 22 feriti, tra cui 9 agenti e 20 giovani arrestati, per lo più di nazionalità francese, tutti di età tra i 20 e i 22 anni. E questo è il bilancio finale di una notte di violenti scontri a Lloret de Mar, nota località della movida internazionale in Costa Brava, tra turisti e polizia spagnola, dopo che quest'ultima ha vietato l'ingresso ad un locale notturno per una avaria all'aria condizionata. Negli scontri gli agenti sono stati costretti a sparare in aria anche alcuni colpi per disperdere la folla dopo la chiusura della discoteca. Durante le violenze sono stati lanciati oggetti e diversi cassonetti sono stati incendiati. Nessun italiano coinvolto. La cittadina iberica, che è già stata teatro di violenze lo scorso weekend con protagonisti circa 400 turisti, in prevalenza francesi e italiani, conta ora i danni della guerriglia. Dopo questo ennesimo episodio, il sindaco di Lloret de Mar ha cercato di rassicurare la popolazione, annunciando un giro di vite sui regolamenti e attaccando le agenzie di viaggi che, ha detto, devono smetterla di dipingere Lloret de Mar come un posto in cui tutto è permesso. Adriana Frac, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un treno è deragliato nel centro della Polonia, provocando la morte di 4 persone e il ferimento in modo grave di almeno una ventina di passeggeri. L'incidente è avvenuto al confine tra Katowice e Varsavia. Rimarrà in carcere l'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko. La Corte d'Appello di Kiev ha deciso infatti di rigettare la richiesta di scarcerazione dietro cauzione avanzata dai legali della ex Lady di Ferro. L'eroina della Rivoluzione Arancione è stata arrestata in aula venerdì scorso per il suo atteggiamento irriverente nei confronti di corte e testimoni nel processo che la vede imputata per abuso di potere per il controverso contratto per le forniture di gas russo del 2009. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di musica, perché è successo anche questa volta, è successo che una cantante scompare e dopo la sua morte torna a scalare le classifiche. La notizia non era in attesa. Anche in Italia Amy Winehouse a guidare questa settimana la classifica degli album più venduti. Dopo la sua morte, l'album Back to Black del 2006, il suo secondo e più famoso, ha guadagnato 37 posizioni, arrivando al vertice. Suo anche il primo posto nella classifica dei DVD più venduti, con I Told You I Was Trouble. Anche nel nostro paese, quindi, in tanti hanno scoperto la musica di Amy dopo che se n'è andata. Nella settimana della sua scomparsa, nel Regno Unito vennero venduti 50.000 suoi album, 46.000 in digitale, confronto ai 1.400 della settimana precedente. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto, grazie in regia a Mauro De Angeli, un saluto da Paola Nania. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.